Io lo dico con grande forza, nettezza, Roberto Gualtieri sarà il prossimo sindaco di Roma. Io ne sono convinto e il Partito Democratico ha fatto questa scelta convintamente perché Roberto Gualtieri in questa situazione è colui che avrà il massimo di sostegno e il massimo di probabilità di essere il futuro sindaco di Roma. In questi giorni c'è stata molta discussione su questi temi, si è discusso di altre opzioni. Credo che Nicola Zingaretti, che è stato molto generoso nell'andare a verificare anche fino in fondo tutte le opzioni, continuerà a fare bene, come l'ha fatto fino adesso il presidente della regione, a fare la campagna vaccinale bene, come si sta facendo a Roma e nel Lazio, e sono convinto che Roberto Gualtieri sarà un ottimo sindaco di Roma, che vincerà questa sfida, e noi con lui faremo di tutto per fare di questa sfida l'inizio del cambio di politica in Italia. Lo dico perché ricordiamoci sempre che questa vicenda nasce nel 2016, quando il Partito Democratico di allora perse rovinosamente le elezioni che fecero eleggere Virginia Raggi sindaco di Roma e l'Appendino sindaco di Torino. Lo dico, è evidente che Appendino e Raggi, Torino e Roma, nel momento nel quale noi lavoriamo e abbiamo lavorato in questi mesi col 5 Stelle, è evidente però che in queste due città questo lavoro è reso complesso dal fatto che le due sindache, l'esperienza che hanno portato avanti, ha visto in questi 5 anni il Partito Democratico critico e all'opposizione. E quindi era naturale che ci fosse una difficoltà in questo momento. La difficoltà vuol dire che andremo avanti con proposte diverse, ma io sono convinto, molto convinto delle nostre ragioni.